Radio 24 Reportage. Alla Fiera dell'Agricoltura, guardando all'Europa, di Paolo Piacenza. Il picchetto d'onore del Corpo Forestale dello Stato per il ministro Mario Catania, il convegno inaugurale, il giro negli stand, il taglio della torta. Sui campi è caduta la neve, tanta, per molti è benedetta, ma per i più è troppa e il conto alla fine sarà salato. Verona, Fiera Agricola 2012, l'edizione del compleanno numero 110. Quest'anno si festeggiano anche 50 anni di politica agricola comune. Il sistema degli incentivi deve cambiare, il tema del convegno inaugurale è proprio la PAC. Le perplessità sulla bozza di riforma presentata dal commissario Ciolos sono tante, snocciolate da Coldiretti, Confagricoltura, CIA. Italia a favore dell'Est Europa erano previsti, ma non piacciono i criteri. Gli agricoltori chiedono più tutela di imprese e specificità italiane. Il ministro Catania è d'accordo e promette di dare battaglia in Europa. Io vorrei una PAC che sappia, da un lato, tutelare i produttori italiani in termini di regole sulla produzione, sulla commercializzazione dei prodotti, sempre più rigorose e stringenti, perché noi abbiamo bisogno di regole a tutela della nostra qualità, e da un lato vorrei una PAC che distribuisse agli agricoltori europei e quindi anche ai nostri un sostegno adeguato per rimanere sul mercato. Ma cosa dicono loro, i protagonisti, gli uomini con il cappello e il fazzoletto colorato della propria organizzazione agricola, ma soprattutto quelli che si incontrano il giorno dopo, quando l'eco delle parole ufficiali si è spento e restano le macchine, i trattori che mettono in mostra muscoli tecnologici, bestie straordinarie come una cippatrice che sminuzza tronchi interi in pochi secondi. Mentre guardano qua e là e discutono di consumi e potenze, gli agricoltori dichiarano margini scarsi, poca fiducia nella PAC e prudenza per il futuro. E noi siamo in zona montagna, ma cioè, quello che prendiamo, bene o male, ci serve tutto per andare avanti. Ci servono tutti per pagare i fornitori. L'hanno aumentato un po', però prima di aumentare il latte ci hanno aumentato tutte le materie prime, dalla soia, il mais, tutto quanto. E quindi il tornaconto è diminuito da prima. Senti, sei sempre lì che ti fai i conti per andare avanti. La PAC ti invita a investire, però poi ti trovi strozzato perché ti invita, ti dicono ti danno il 70% qua là. Però prima devi pagare la macchina, e pagare la macchina devi andare in banca, perché e quando sei con la banca devi tirare, tirare, che alla fine non hai più. La Penedo Brescia. Latte, carne e maiali, patate, dipende tutto dalla gente, se ha soldi che spende l'agricoltura funziona di più, se la gente ha meno soldi compra meno. E anche noi dovremmo acquistare delle macchine, ma adesso sì, se non si guadagna. Il problema è che la PAC non ci dovrebbe essere, che dovrebbe fare il prezzo mercato, perché la PAC la danno perché non c'è mercato, però è la sostanza, il mercato, il prezzo. Ma io sono in zona Rovigo, mais, grano, frumento, trebbiatura, diciamo, lavoro di tutti, campagna. È zona che tanta concorrenza e è un fiore crisi, insomma, qua. Purtroppo con il discorso dei pannelli solari che fa dei terreni elevati, ti elimina l'agricoltura, tra terreni biomasse più i pannelli solari, pensa te, c'è. Cioè, certo, sono tempi di crisi, ma chi può investire comunque preferisce non esporsi. In fiera si sa, nessuno dice che intende comprare. I venditori sanno già che sarà dura arrivare alla firma. Oggi non è male. Sicuramente la Fiera di Verona è sempre stata una fiera abbastanza interessante. È abbastanza bene. Oggi c'è parecchia gente, mentre ieri non è che ci fosse molto. Cioè, è sempre una fase abbastanza di stallo. Tutti stanno un po' a guardare, però l'informazione c'è. Adesso aspettano magari anche qualche incentivo o qualcosa che possa saltare fuori. E la nuova agricoltura, a partire da quella conservativa, permette di risparmiare carburante e inquinare meno, con rese comunque alte, si semina sul sodo, è diffusa in tutto il mondo, Nord e Sud America in testa. Ma al seminario organizzato dalla rivista L'Informatore Agrario, dalla platea si levano voci in dissenso. In pianura padana dicono la resa dell'aratura è troppo superiore. Lavorazione del sodo, nel caso mio, avendo l'allevamento, e anche nella zona mia dove che va adeguato ai contesti regionali, aziendali, perché poi ognuno ha le sì cose. Ma mia, facciamo un discorso medio, sì, in quella zona, in quelle caratteristiche lo ritengo valido. Nella mia zona dove il mais e gli 800 quintali a ettaro sono il minimo si può fare. Non si può. Per i giovani il nodo è un equilibrio accettabile tra regole, sostenibilità e reddito. Se a casa tua ti dovessero dire no, adesso tu non coltivi più il riso, devi mettere almeno metà, piantumare la metà degli ettari, la metà dei tuoi profitti tagliati, insomma. Non siamo poi più competitivi, cioè gli altri paesi possono fare quello che vogliono, noi non abbiamo più competizione nel mercato, cioè possiamo magari fare qualcosa, magari puntare sulla qualità, però la qualità a noi non è mai pagata, cioè io faccio l'esempio del riso, se io faccio resa 60 piuttosto che resa 68 è sempre lo stesso il prezzo. Sì, va bene imporre dei vincoli che siano comunque per rispetto dell'ambiente oppure anche per la qualità delle materie, però poi se noi rispettiamo questi vincoli che comunque sono un costo per le aziende e poi dopo ci sono aziende estere che possono mettere sul mercato dei prodotti a prezzo molto inferiore perché comunque non rispettano queste cose, cioè allora non funzionano le cose. Vincoli, anche la produzione. Appunto, se poi i prodotti vengono tagliati con prodotti dell'estero che non rispettano le regole e quindi costano meno per loro, poi il prodotto italiano non ne risente. Il volto più bello, più affascinante della fiera resta il padiglione degli animali. Troneggia trionfale tra vitelli e pollame un bue da 1500 kg di razza piemontese. In mostra ci sono solo alcune specie, ma bastano per farsi un'idea di un patrimonio ricchissimo, perché è proprio nella diversità, nelle specificità delle produzioni agricole e zootecniche che l'Italia del forcone e del trattore deve difendere il suo posto nel mondo. La globalizzazione però impone un cambiamento e servono strade nuove come quella intrapresa soprattutto, ma non solo, dalle imprese medio-piccole. Diversificare offrendo anche servizi al pubblico oltre alla produzione. Antonio Boschetti è il direttore dell'Informatore Agrario, storica rivista del settore che ha promosso una ricerca sul tema. Molte aziende agricole oggi, in competizione ovviamente con tutta l'agricoltura mondiale, si sono viste costrette a diversificare le fonti di reddito. Ad esempio le fattorie sociali, che sono rivolte proprio, che si aprono alla società e alle esigenze del territorio in cui insistono e svolgono attività ad esempio di recupero di disabili o di persone che hanno avuto forti disagi sociali. Le fattorie didattiche, che hanno un ruolo fondamentale perché insegnano a centinaia e migliaia di ragazzini dove nascono, come e dove nascono i frutti della terra, e gli insegnano anche il made in Italy, il mangiar bene, il mangiare naturale e via dicendo. I dati dimostrano che il trend è crescente. Oggi in Italia ci sono 100.000 aziende che hanno già diversificato. Crescerà sicuramente, molte si impegneranno sul fronte agroenergetico. Parliamo soprattutto di biogas e un po' di biomasse legnose. Questa agricoltura sarà a fianco dell'agricoltura tradizionale che per quanto riguarda i numeri, per quanto riguarda le produzioni di derrate alimentari, rimarrà protagonista assoluta. Serve però la capacità di leggere il cambiamento ed interpretarlo, dice ancora Boschetti. Oggi l'agricoltura si trova al centro, a mio avviso, di una rinascita, diciamo così, a livello mondiale. Voi sapete del fenomeno del cosiddetto land grabbing, cioè dell'accaparramento delle terre agricole, delle terre produttive. Quindi anche gli agricoltori, molti agricoltori stanno andando all'estero e stanno acquisendo aziende agricole in Romania, in Ungheria, in Croazia e via dicendo. Oggi l'agricoltura si deve confrontare con i mercati mondiali. Gli agricoltori sono cresciuti anche da un punto di vista culturale e di istruzione e sono dei veri e propri imprenditori. Io distinguerei, vedo due agricolture. Un'agricoltura molto legata al territorio, delle piccole e medie aziende, soprattutto nelle aree magari un po' particolari come l'Appennino, come può essere la collina o la pedemontana, che perseguiranno produzioni molto specializzate, di alto valore aggiunto e molte delle quali diversificheranno. E vedo poi un'altra agricoltura, quella delle grandi aziende, che è fondamentale perché è quella che ci sfamerà da qui ai prossimi anni. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.